La vittoria degli alleati sembrava, se non vicina, perlomeno quasi sicura, e bisogna purtroppo ammettere che il maggiordomo ne era desolato. E infatti, avendo ridotto la guerra mondiale, come ogni altra cosa, a quella che lui conduceva sordamente contro Françoise, alla quale del resto, malgrado tutto, voleva bene, come si può voler bene alla persona che si fa arrabbiare ogni giorno battendola a domino, la vittoria si configurava ai suoi occhi nella specie della prima conversazione in cui avrebbe avuto la sofferenza di sentirsi dire da Françoise: «Finalmente è finita, e saranno costretti a darci più di quello che gli abbiamo dato noi nel 70». Era sempre convinto, del resto, che questa fatale scadenza sarebbe arrivata, perché un patriottismo inconscio gli faceva credere, come a tutti i francesi vittime dello stesso mio miraggio da quando ero malato, che la vittoria, al pari della guarigione, fosse per l'indomani. Metteva le mani avanti, annunciando a Françoise che la vittoria, forse, sarebbe arrivata, ma che il suo cuore ne sanguinava, perché sarebbe stata seguita immediatamente dalla rivoluzione, poi dall'invasione. «Ah, questa dannata guerra! I crocchi saranno gli unici a risollevarsene subito, Françoise. Ci hanno già guadagnato centinaia di miliardi. Ma che mollino un soldo a noi, neanche pensarci. Sui giornali lo metteranno, magari», aggiungeva per prudenza e per prevenire ogni evento, «per tenere buona la gente, così come da 3 anni ci dicono che la guerra finirà domani». Françoise era tanto più turbata da queste parole in quanto, dopo aver creduto agli ottimisti più che al maggiordomo, vedeva che in effetti la guerra, che aveva pensato dovesse finire in 15 giorni, sebbene il povero Belgio fosse stato invasato, durava ancora, che i nostri non avanzavano, fenomeno di fissazione dei fronti di cui non capiva bene il senso, e che, infine, uno dei suoi innumerevoli figliocci, a cui dava tutto ciò che guadagnava da noi, raccontava come avessero tenuta nascosta questa o quest'altra cosa. «Ricadrà tutto sugli operai», concludeva il maggiordomo. «Vi prenderanno il vostro pezzetto di terra, Françoise?» «Oh, signore Dio!» Ma a queste sventure remote, il maggiordomo ne preferiva di più prossime e divorava i giornali nella speranza di poter annunciare una disfatta a Françoise. Aspettava cattive notizie come fossero uova di Pasqua, sperando che le cose andassero abbastanza male da spaventare Françoise, non abbastanza da procurare a lui dei fastidi materiali. Così un'incursione di Zeppelin lo avrebbe deliziato, perché avrebbe visto Françoise costretta a nascondersi in cantina e perché era convinto che in una città grande come Parigi le bombe non sarebbero andate a cadere proprio sulla nostra casa. Del resto, Françoise cominciava ad essere ripresa a tratti dal suo pacifismo di Combray. Arrivava quasi a dubitare delle atrocità tedesche. Al principio della guerra ci dicevano che i tedeschi erano degli assassini, dei briganti, dei veri banditi, dei crocchi. Se metteva più di una C a crocchi, era perché l'accusa che i tedeschi fossero degli assassini le sembrava in fin dei conti plausibile, ma quella che fossero dei crocchi, pressoché inverosimile a causa della sua enormità. Solo che era piuttosto difficile capire quale senso misteriosamente terrificante desse Françoise alla parola crucco, visto che si trattava dell'inizio della guerra, nonché a causa dell'aria dubitosa con cui la pronunciava. Che i tedeschi fossero dei criminali poteva essere infondato in linea di fatto, ma non implicava, dal punto di vista logico, alcuna contraddizione. Ma come dubitare che fossero dei crocchi, dal momento che questa parola, nella lingua popolare, voleva dire precisamente tedeschi? Forse Françoise non faceva che ripetere, in stile indiretto, i discorsi violenti che aveva sentiti allora e nei quali la parola crucco veniva accentuata con particolare energia. «Ho creduto a tutto quanto», diceva, «ma adesso comincio a chiedermi se non siamo dei bricconi anche noi come loro». Questo pensiero blasfemo era stato subdolamente preparato in Françoise dal maggiordomo, il quale, vedendo che Françoise aveva un debole per il re Costantino di Grecia, non aveva smesso di raccontarle che lo lasciavamo senza cibo finché non avesse ceduto. Così l'abdicazione del sovrano aveva molto commosso Françoise, tanto da farle dichiarare: «Non siamo migliori di loro. Se fossimo in Germania, non ne faremmo meno di loro». La vidi poco, del resto, in quei giorni, perché andava spesso da quei suoi cugini, di cui la mamma un giorno mi aveva detto: «Ma sai che sono più ricchi di te?». Si era vista allora quella cosa molto bella che fu frequentissima in tutto il paese e che testimonierebbe, se ci fosse uno storico a perpetuarne il ricordo, la grandezza della Francia, la sua grandezza d'animo, la sua grandezza secondo Saint-André de Champs, rivelata da tanti civili sopravvissuti nelle retrovie non meno che dai soldati caduti sulla Marne. A Berry-au-Bac era rimasto ucciso un nipote di Françoise, che era nipote anche di quei suoi cugini milionari, ex grandi caffettieri, ritiratisi da molto tempo dopo essersi arricchiti. Era rimasto ucciso lui, modestissimo caffettiere non arricchito, che andando sotto le armi a 25 anni aveva lasciato sola la giovane moglie a gestire il piccolo bar cui pensava di tornare dopo pochi mesi. Era rimasto ucciso e allora era successa quella cosa. I cugini milionari di Françoise, che non erano niente per la giovane vedova del loro nipote, avevano lasciato la campagna dove si erano ritirati da 10 anni ed erano tornati a fare i caffettieri senza volere per loro neanche un soldo. Tutte le mattine alle 6 la moglie milionaria, una vera signora, era già vestita al pari della sua signorina per aiutare la loro nipote e cugina acquisita. E da quasi 3 anni, così, risciacquavano bicchieri e servivano consumazioni dal mattino fino alle 9:30 di sera, senza un giorno di riposo. In questo libro, dove non c'è un solo fatto che non sia fittizio, dove non c'è un solo personaggio a chiave, dove tutto è stato inventato da me, secondo le esigenze della mia dimostrazione, devo dire, a lode del mio paese, che soltanto i parenti milionari di Françoise, che hanno rinunciato al loro riposo per aiutare la nipote, priva di sostegno, soltanto loro sono persone reali, persone che esistono. E nella convinzione che la loro modestia non ne verrà turbata, per la semplice ragione che non leggeranno mai questo libro, è con un piacere infantile e una profonda emozione che, non potendo citare i nomi di tanti altri che certamente agirono nello stesso modo e grazie ai quali la Francia è sopravvissuta, trascrivo qui il loro vero nome, un nome d'altronde talmente francese. Si chiamano La Rivière. Se ci sono stati alcuni sinistri imboscati, del tipo dell'imperioso giovanotto in smoking che avevo visto da Jupien, e la cui sola preoccupazione era di sapere se avrebbe potuto avere Leon alle 10:30 perché aveva un impegno a colazione, essi sono riscattati dalla folla innumerevole di tutti i francesi di Saint-André de Champs, da tutti i soldati sublimi, sul cui stesso piano io metto il La Rivière. Il maggiordomo, per attizzare le inquietudini di Françoise, le faceva vedere delle vecchie Lecture pour tout che aveva ritrovate e sulla cui copertina, erano numeri di prima della guerra, figurava la famiglia imperiale di Germania. «Ecco il nostro padrone di domani», diceva il maggiordomo a Françoise, mostrandole Guglielmo. Lei sgranava gli occhi, dopodiché passava al personaggio femminile che gli stava a fianco e diceva: «Ecco la Guglielmessa». Quanto a Françoise, il suo odio per i tedeschi era estremo. Era temperato solo da quello che le ispiravano i nostri ministri, e non so se si augurasse più ardentemente la morte di Hindenburg o quella di Clemenceau. La mia partenza da Parigi fu ritardata da una notizia che, con il dolore che mi diede, mi rese per qualche tempo incapace di mettermi in viaggio. Fui informato, infatti, della morte di Robert de Saint-Leu, ucciso 2 giorni dopo il suo ritorno al fronte, mentre proteggeva la ritirata dei suoi uomini. Nessun uomo aveva conosciuto meno di lui l'odio per un popolo. Quanto all'imperatore, per ragioni particolari e forse false, pensava che Guglielmo II avesse cercato di impedire la guerra più che di scatenarla. Nessun odio nemmeno per il germanesimo. Le ultime parole che avevo sentite dalla sua bocca 6 giorni prima erano state quelle iniziali di un Lied di Schumann che aveva canticchiato in tedesco sulle scale di casa mia, tanto che a causa dei vicini l'avevo fatto tacere. Abituato da una suprema buona educazione a mondare il proprio comportamento da ogni apologia, da ogni invettiva, da ogni frase, aveva evitato di fronte al nemico, come al momento della chiamata alle armi, ciò che avrebbe potuto garantirgli la vita, con quella cancellazione di sé davanti agli altri che era simboleggiata in tutti i suoi modi, persino nel modo con cui chiudeva lo sportello del mio fiacre quando mi riaccompagnava a capo scoperto ogni volta che uscivo da casa sua. Per parecchi giorni rimasi chiuso in camera mia pensando a lui. Ricordavo il suo arrivo, la prima volta a Balbec, quando, vestito di flanella quasi bianca, con i suoi occhi verdastri e mobili come il mare, aveva attraversato la hall attigua alla sala da pranzo, le cui vetrate davano sul mare. Ricordai l'essere affatto speciale che mi era parso allora, l'essere di cui avevo tanto desiderato, essere amico. Il desiderio si era realizzato al di là di quanto avessi mai potuto credere, senza darmi tuttavia allora quasi nessun piacere, e in seguito m'ero reso conto di tutti i grandi meriti e anche dell'altro che quell'apparenza elegante nascondeva. Tutto ciò, il buono come il cattivo, Robert l'aveva profuso senza risparmio, tutti i giorni, l'ultimo andando all'attacco d'una trincea, per generosità, per mettere al servizio degli altri tutto ciò che possedeva, così come una sera era corso sopra i divani del ristorante per non disturbarmi, e averlo visto in fondo così poco, in luoghi così vari, in circostanze così diverse e separate da tanti intervalli, in quella hall di Balbec, al caffè di Rivebelle, nella caserma di cavalleria e ai pranzi militari di Doncier, al teatro dove aveva schiaffeggiato un giornalista, in casa della principessa di Guermand, mi dava della sua vita quadri più impressionanti, più nitidi, della sua morte una sofferenza più lucida di quelli che si hanno spesso per persone amate di più, ma frequentate così di continuo che l'immagine che ne serbiamo non è più che una specie di vaga media tra un'infinità di immagini insensibilmente diverse. E il nostro affetto appagato non ha, come per coloro che abbiamo visti solo per momenti limitati, nel corso di incontri incompiuti nostro e loro malgrado, l'illusione della possibilità di un affetto più grande di cui solo le circostanze ci abbiano defraudati. Pochi giorni dopo quello in cui l'avevo visto inseguire il suo monocolo, e così altero nella mia immaginazione, in quella hall di Balbec, c'era un'altra forma vivente che avevo vista per la prima volta sulla spiaggia di Balbec e che adesso non esisteva, neppure lei, che allo stato di ricordo. Ed era Albertine, nell'atto, quella prima sera, di calpestare la sabbia, indifferente a tutti e Marina, come un gabbiano. L'avevo amata così subito, lei, che per poter uscire con lei ogni giorno non ero mai andato da Balbec a trovare Saint-Leu. Eppure, la storia dei miei rapporti con lui testimoniava anche che a un certo punto avevo smesso di amare Albertine, perché se ero andato a installarmi per qualche tempo a Doncier, accanto a Robert, era stato per la pena di non veder ricambiato il mio sentimento per Madame de Guermand. La sua vita e quella di Albertine, da me conosciute così tardi, entrambe a Balbec e così presto finite, si erano appena incrociate. È lui, mi ripetevo, vedendo le agili navette degli anni tessere fili fra i nostri ricordi che sembravano dapprima così indipendenti. È lui che ho mandato da Madame Bontemps quando Albertine mi ha lasciato. E poi si era dato il caso che le loro due vite avessero ciascuna un segreto parallelo e da me insospettato. Quello di Saint-Leu mi dava forse adesso più tristezza di quello di Albertine, la cui vita m'era diventata affatto estranea, ma non potevo consolarmi del fatto che sia la sua sia quella di Saint-Leu fossero state così brevi. Tutti e due mi dicevano spesso, mentre si prendevano cura di me, «Voi che siete malato!» E a morire erano stati loro, loro, di cui potevo, separate da un intervallo in fondo così breve, contrapporre l'immagine ultima davanti alla trincea nel fiume all'immagine prima che, anche nel caso di Albertine, non valeva più per me se non associata a quella del tramonto sul mare.